Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Einstein diceva: non esiste una scienza applicata, esiste soltanto scoperte e invenzioni della scienza. Io credo che Einstein aveva ragione. Non c'è separazione tra scienza fondamentale, tra parentesi inutile, e scienza applicata, tra parentesi utile, perché la scienza applicata sono come le frutta che vengono da un albero, il cui albero è la scienza fondamentale. La scienza fondamentale è l'albero. La scienza applicata o le applicazioni della scienza sono i fiori, sono le piante. E non possiamo tagliare l'albero e pretendere di mantenere la frutta. Se noi abbiamo raccolto le frutta una volta, avendo tagliato l'albero per un tempo indeterminato, non avremo né più albero e né più frutta. Non avremo più albero né frutta. Mai metafora botanica fu più azzeccata se si parla di scienza, ma anche di futuro della Terra. La voce che avete appena sentito è quella di uno studioso di fama mondiale, uno dei più illustri cervelli in fuga dal nostro paese. Non vogliamo ancora svelarvi il suo nome, ma il suo ruolo è fondamentale nella trattazione di un argomento delicato come quello della salvaguardia dell'ambiente. Si tratta di uno scienziato il cui incessante lavoro ha spalancato nuove ed esaltanti frontiere dal punto di vista della ricerca, sempre più forsennata di fonti di energia non inquinanti, in grado di sostituire una volta per tutte l'utilizzo di combustibili fossili. Una realtà, quella della fragilità del nostro pianeta, che negli ultimi 10 anni ha affollato le coscienze della popolazione e la fantasia dei produttori cinematografici. Era il 2004 quando Roland Emmerich pensò bene di inventarsi lo sconvolgente disastro climatico di The Day After Tomorrow, pellicola catastrofica che immaginava un ipotetico futuro funestato da una nuova e repentina glaciazione causata dal comportamento sconsiderato dell'umanità nei confronti del delicato ecosistema terrestre. Certo, nessuna delle glaciazioni avvenute realmente dal Proterozoico in avanti si è manifestata d'improvviso in una manciata di giorni, ma i tempi cinematografici richiedono sintesi e lo scopo di un film ambientalista non è quello di restare troppo fedele alla verità storica e paleoclimatica. L'importante è suscitare emozioni nel pubblico e, perché no, un genuino sentimento di preoccupazione per il destino del nostro pianeta. Lo dico per i telespettatori che si fossero da poco collegati con noi. Siamo in diretta dal centro di Los Angeles. Sì, Tommy! Guardate laggiù, dietro di me. Quello là è un tornado. Sì, una tromba d'aria a Los Angeles. Uno dei numerosi tornado che stanno demolendo la nostra città. Ce n'è un altro laggiù. Quelli sono i grattacieli di Los Angeles. È incredibile, credetemi, enorme. Un disastro inimmaginabile. Los Angeles, l'assolata città simbolo dello stato della California, affacciata sull'Oceano Pacifico, con i suoi chilometri e chilometri di spiagge prese d'assalto dagli amanti della tintarella, oltre che dai surfisti, non è normalmente soggetta a tifoni o fenomeni atmosferici di portata così preoccupante. Ma il futuro dipinto in The Day After Tomorrow va al di là della realtà dei fatti. E i suoi risvolti catastrofici dovrebbero servire da monito. La Terra è un organismo più delicato di quello che crediamo. Ed è molto, molto più bisognosa di attenzioni rispetto alle poche che siamo abituati a concederle da ormai decenni. Lo sa bene Al Gore, vicepresidente degli Stati Uniti nell'era Clinton e candidato sfidante di George W. Bush. Oltre a essere un politico abile e appassionato, Gore è anche un esperto di questioni climatiche. Dopo la bruciante sconfitta alle elezioni presidenziali del 2000, si dedica a girare forsennatamente l'America mostrando un'accurata presentazione multimediale nella speranza di sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici in corso. Il suo testardo e incessante lavoro nel 2006 diventa un documentario dal titolo Una scomoda verità. Nel 2000 il mio oppositore Bush si è impegnato a regolare le emissioni di CO2, ma l'impegno non è stato mantenuto. Il problema, da quello che ho visto in questi anni, è che il livello di anidride carbonica ha continuato a salire. È inarrestabile. E adesso cominciamo a vederne l'impatto sul mondo reale. La questione del riscaldamento globale ormai è sotto gli occhi di tutti e le tematiche ambientali colpiscono sempre più il cuore dell'intera popolazione mondiale. L'uso massiccio ed estensivo del petrolio e dei suoi derivati, oltre a produrre inquinamento, porta anche al verificarsi di episodi incresciosi, come quello provocato nell'aprile 2010 dall'esplosione della piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, con la conseguente fuoriuscita di greggio e la distruzione delle coste investite dall'ondata di liquido nero e viscoso. Nemmeno l'energia nucleare fa dormire sonni tranquilli. Ne sanno qualcosa i giapponesi, flagellati dalle terribili conseguenze del terremoto dello scorso 11 marzo. L'umanità è alla ricerca di soluzioni nuove ed intelligenti che consentano di rispondere all'enorme fabbisogno energetico senza compromettere il fragile equilibrio dell'ecosistema terrestre. Molti paesi occidentali e non solo stanno abbandonando vecchi metodi e vecchie centrali in favore di sistemi basati sulle cosiddette fonti rinnovabili. Questa storia del solare è cominciata con Archimede, il nome di Archimede lo sappiamo. Archimede è stato quello che ha cercato di bruciare i romani con degli specchi 2000 anni fa. Forse sì, forse no, ma certamente l'idea è una grande idea. È stata sviluppata tecnologicamente. L'intuizione attribuita al grande matematico Archimede è quella che riguarda il funzionamento degli specchi ustori, ovvero specchi che siano in grado di concentrare i raggi paralleli provenienti dal Sole in un unico punto, denominato fuoco dello specchio. La leggenda, o forse la storia, vuole che l'utilizzo degli specchi ustori sia legato all'assedio di Siracusa, operato dalle truppe romane di Marcello nel 212 a.C., quando gli abitanti della città della Magna Grecia avrebbero tentato di mettere in difficoltà gli invasori che si appressavano via terra e via mare, infastidendoli a colpi di raggi ustionanti prodotti grazie a specchi parabolici. Può darsi che si tratti soltanto di una diceria tramandatasi per un paio di millenni, corroborata dall'indiscussa fama di genio del suo ideatore. Di certo, c'è che grazie ai potenti mezzi della tecnologia moderna, quest'idea si è potuta tradurre nella nascita del cosiddetto solare termodinamico. Il progetto Archimede, come tutti i progetti innovativi, ha avuto una serie considerevole di opposizioni, di dichiarazioni contrarie, di convinzioni che le cose non si devono fare in questo modo perché c'era un altro modo per farlo. Sotto il nome di Progetto Archimede si riuniscono le idee e le convinzioni in materia di produzione del solare a concentrazione dello scienziato che in apertura citava Einstein con la nonchalance che solo un vero genio può permettersi. Stiamo parlando naturalmente del premio Nobel Carlo Rubbia. Carlo Rubbia. Carlo Rubbia, Nobel per la fisica nel 1984, è l'inventore della tecnologia rivoluzionaria che consente il funzionamento delle moderne centrali solari termodinamiche. Una conquista recente, che però ha radici molto antiche, come lui stesso a ricordare. Comunque il sole è sempre stato una chiave del futuro energetico e io credo che è forse l'unica sorgente energetica indigena del nostro paese. E noi siamo stati capaci di sfruttarla, non si è sfruttata. Le geniali intuizioni e le conoscenze del professor Rubbia hanno però bisogno di qualcuno disposto a crederci e investirci per concretizzarle. Qualcuno che in Italia tarda ad arrivare. Mentre lo attendiamo, proviamo a conoscere meglio la storia di questo geniale scienziato. Io sono nato nel 1934, quando c'era Hitler che urlava nell'altoparlante e Mussolini faceva i grandi discorsi. Figlio di un ingegnere elettronico e di una maestra elementare, Rubbia eredita dai genitori la curiosità e la passione per la scienza, qualità imprescindibili del futuro genio. Per me la fisica è sempre stata un'altra natura. Io ho sempre trovato che la curiosità, la possibilità di conoscere cose diverse, era un enorme piacere per l'essere umano e che ogni nuova scoperta, ogni nuova immagine, ogni nuova cosa che diveniva possibile e divenuta possibile, per me è stato un enorme piacere. I luoghi d'esercizio di tale piacere sono molteplici e tutti prestigiosi. La Scuola Normale Superiore di Pisa, dove si laurea in fisica nel 1957, la Columbia University e il celeberrimo CERN di Ginevra, il più grande laboratorio nel mondo adibito allo studio della fisica delle particelle. Nel 1983, proprio presso il CERN, è a capo del gruppo di studiosi che scoprono le particelle responsabili dell'interazione debole, una delle quattro interazioni fondamentali in natura secondo i modelli contemplati dalla fisica subnucleare. L'anno seguente, l'Accademia Reale Svedese delle Scienze non fa attendere il proprio verdetto. Il Nobel per la fisica è suo. E proprio lo scopo della mia vita è quello di vedere cose in maniera diversa, in maniera innovativa, in maniera molte volte ortogonale a quella che la regola del resto della società, quelle cose che noi chiamiamo con la parola di curiosità. Per me è la curiosità che domina la vita, e la curiosità non è la saggezza che ha fatto scendere l'uomo dall'albero 300.000 anni fa, e la curiosità è non la saggezza che ci ha permesso, ad esempio, di mettere l'uomo sulla Luna. È perché siamo curiosi, vogliamo vedere com'era fatta la Luna che siamo andati lì, non perché volevamo andare sulla Luna perché la Luna ci interessava. E questo sentimento di curiosità, che è una delle caratteristiche fondamentali dell'essere umano, è che io ho il piacere, il grandissimo piacere, di poter innovare e di poter sviluppare liberamente. Nel 1999, dopo un quindicennio di successi in campo internazionale, coronati fra le altre cose dalla prestigiosa cattedra presso l'Università di Harvard, il professor Rubbia viene scelto per il ruolo di presidente dell'ENEA, l'ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, organismo italiano presso il quale ha intenzione di sviluppare studi innovativi nel campo delle energie rinnovabili. Ora, normalmente un presidente di un ente non è obbligato a tirarsi sulle maniche, andare a lavorare con la gente e scrivere, costruire e costruire delle cose al punto di arrivare a essere autore di brevetti. Questa è stata un'attitudine che io ho cercato di portare avanti e a mio parere è stata essenziale. L'apporto di Rubbia è sostanziale, ma i contrasti sono proprio dietro l'angolo. La strenua difesa del professore nei confronti delle energie rinnovabili, in grado secondo lui di soppiantare in Italia e in tutto il mondo l'uso delle centrali nucleari e di quelle a combustibili fossili, è fortemente osteggiata dai membri stessi del consiglio dell'ENEA. Quando sono arrivato all'ENEA mi sono reso conto che il solare poteva essere una grande opportunità per il paese. E ho cercato di portare avanti un programma, mi sono stato difficoltà, osteggiato, gente che non voleva, discorsi di carattere di vario genere. Insomma, è stata un'esperienza molto spiacevole nel fatto che questo risultato è stato opposto da tantissima gente, e io, come al solito, ho cercato di risolvere il problema andandomi altrove. Sono andato in Spagna, e la Spagna oggi sta facendo un lavoro sul solare che è assolutamente egregio. Non dimentichiamo che in Spagna oggi ci sono 100 volte più impianti solari di quante ce ne siano in Italia, un fattore 100 per due paesi che sono a priori identici è un grosso fattore. E soprattutto adesso c'è un grande sviluppo che si sta facendo e che sono i paesi in via di sviluppo. Per esempio la Cina oggi è il terzo paese dopo la Spagna e dopo gli Stati Uniti nella produzione di solare da concentrazione. Un altro cervello in fuga, insomma. Quando nel 2005 l'ENEA viene commissariata, Rubbia, sollevato dal suo incarico di presidente, non resta con le mani in mano. Fermamente convinto della bontà del suo progetto, cerca di farlo attecchire altrove. I numeri gli sono favorevoli. L'energia solare non solo è conveniente per l'ambiente, ma anche per le tasche di un paese. Ai prezzi attuali, l'impianto si ripaga in 6 anni e ne dura all'incirca 30. Oltretutto, una volta avviata la produzione di massa, i prezzi di costruzione tenderanno a un naturale dimezzamento. E quindi, in questo tipo di condizioni, è chiaro ed evidente che le energie rinnovabili sono una grande opportunità, ma sono un'opportunità commerciale. L'importante è che ci sia abbastanza intelligenza e capacità e inventività per riuscire a mantenersi nella situazione number one in questo campo. Non c'è nel grande campo internazionale della competizione number two. O sei number one o ti mangiano vivo. La fuga di Rubbia in Spagna non è dettata da una presa di posizione, ma dall'oggettivo bisogno di trovare un terreno favorevole su cui far crescere un progetto ambizioso e coraggioso. Il desiderio di tornare in Italia, di vedere fiorire l'interesse per l'energia solare sul suolo del suo paese, è sempre in cima ai suoi pensieri, alle sue esternazioni. La sua voce, come abbiamo sottolineato, non viene ascoltata dalle istituzioni. Ma qualcuno disposto a trarre ispirazione dalla visione illuminata verso le energie alternative del Nobel Rubbia c'è. Come al solito, è un giovane, o meglio, una giovane, disposta a superare i pregiudizi dei notabili del pensiero e a trasformare in opportunità la tradizione di famiglia. Una ragazza, insomma, che ha solo bisogno di un po' di tempo per capire veramente qual è la sua strada e alla quale Rubbia ha decisamente indicato la direzione giusta. Devo dire, sinceramente, non pensavo fin dall'inizio che avrei fatto questo mestiere, cioè non pensavo che effettivamente mi sarei trovata a lavorare nell'azienda di famiglia. Avevo scelto un percorso diverso, ho studiato scienze politiche con indirizzo storico, pensando potrei fare tutt'altro. La voce che avete appena sentito appartiene a una giovane promessa, anzi scommessa, dell'imprenditoria nostrana. Una manager coraggiosa e sensibile alle nuove esigenze dell'ambiente, che il progetto di Rubbia all'Enea lo ha seguito e come, anche se per il momento non lo ha ancora trasformato in realtà. Il suo nome è Federica Angelantoni. Le radici di Federica la dicono lunga sul suo futuro imprenditoriale. Nata il 19 maggio 1977 a Monza, nel cuore dell'operosa Brianza, si trasferisce ancora bambina a Massa Martana, paese del Perugino adagiato in mezzo alle colline, da cui proviene il nonno Giuseppe, l'iniziatore dell'impresa di famiglia. A Massa Martana, la famiglia di Federica ha messo in piedi un'azienda che produce camere climatiche, ovvero alta tecnologia del freddo, al servizio dell'industria elettronica e aerospaziale, oltre ad occuparsi della realizzazione di sofisticate apparecchiature biomedicali per il settore ospedaliero, universitario e farmaceutico. C'è una divisione che si occupa addirittura di realizzare simulatori spaziali, macchine che sappiano riprodurre fedelmente le condizioni più estreme possibili per aiutare i centri spaziali sparsi in giro per il mondo ad effettuare prove di precisione sui propri satelliti. Niente a che vedere con il percorso di studi che Federica ha scelto per sé. Prima il liceo a Perugia e poi la facoltà di scienze politiche. Eppure il destino sembra avere in serbo altri piani, come lei stessa a raccontarci. Poi, esattamente 10 anni fa, per la festa dei 70 anni dell'azienda, della capogruppo, mi sono trovata coinvolta nell'organizzazione, preparativi, e mi sono sentita molto fiera di essere di questa famiglia, di avere questa tradizione imprenditoriale. Così ho guardato al tutto con occhi diversi, ho detto, beh, perché no, proviamo e vediamo effettivamente che cos'è. Ho chiesto a mio padre se potevo iniziare e lui, chiaramente ben contento, mi ha fatto fare alcuni piccoli lavoretti e poi mi sono accorta che però lo studio che avevo fatto non era il più attinente per quello che a quel punto avevo deciso che avrei voluto provare a fare. Federica si laurea con una tesi su Napoleone Bonaparte e sceglie di abbandonare il settore storico per abbracciare quello imprenditoriale. Lo fa con spirito di sacrificio, ma con la convinzione che quella sia la strada giusta da seguire. E per farlo non resta che rimettersi a studiare e rispolverare idee ascoltate quasi per caso di vecchi curiosi della fisica, come Carlo Rubbia. Il professor Rubbia è un punto di riferimento importante per la nostra tecnologia e anche, devo dire, per me come imprenditrice, perché ogni volta che ho a che fare con lui indubbiamente mi lascia una visione diversa delle cose, della realtà, del mercato e del futuro soprattutto. Destini incrociati. Destini Incrociati sta seguendo il percorso di Federica Angelantoni, giovane erede di una lunga tradizione imprenditoriale nel campo delle innovazioni tecnologiche e intenzionata a proseguirle ancora per lungo tempo. Per farlo però ha bisogno di rimettersi seriamente sui libri. E allora sono partita per fare un MBA in lingua inglese, l'ho fatto a Parigi perché ho preferito non allontanarmi troppo. E l'ho fatto per cui una scuola americana che ha sede anche a Parigi, sono stata fuori un anno e quando sono tornata ho fatto un'esperienza di lavoro in una società di consulenza. E da lì, per fare anche un'esperienza fuori dalla mia stessa azienda. Da lì, dopo un altro anno e mezzo, due, sono rientrata e ho portato un progetto un po' innovativo all'interno del gruppo di riorganizzazione delle linee produttive, un po' di novità. E la novità che Federica ha intenzione di introdurre nell'azienda di famiglia è legata senza dubbio al futuro, ma anche al passato e alle radici culturali, oltre che al contesto fisico a partire da cui si è sviluppata la sua personalità forte e volitiva. Sicuramente c'è un'attenzione a quello che è la natura, al rispetto dell'ambiente, alla salvaguardia dell'ambiente, e vivere in Umbria indubbiamente ti prepara ad avere questo approccio, perché comunque si vive in un contesto in cui la natura, la campagna e l'aria buona sono l'elemento caratteristico e il bello di questa regione, per cui fa piacere fare delle cose che possano aiutare a salvaguardare questo ambiente. Federica non sa che l'opportunità per imprimere la propria visione all'azienda è giusto dietro l'angolo. Basta avere la capacità di ascoltare le idee visionarie di un mostro della fisica. Poi mi sono messa a seguire l'azienda che in quel periodo era coinvolta con il progetto dell'Enea, con il progetto del professor Rubbia, sulla lavorazione di tubi ricevitori per il solare termodinamico. Il professor Carlo Rubbia, premio Nobel per la fisica nel 1984, nel 1999 è diventato presidente dell'Enea. La sua idea è sempre stata quella di incentivare il più possibile la ricerca sullo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili, a scapito sia dell'utilizzo dei combustibili fossili che dell'energia nucleare. Al progetto voluto da Rubbia per il solare termodinamico, il progetto Archimede, partecipa anche la Angelantoni Industrie. Ma la ricerca italiana in questo campo non avrà un seguito immediato perché osteggiata al suo nascere. Per Federica si tratta comunque di un'esperienza incredibile, anche se ancora allo stato embrionale. L'idea di confrontarsi con personalità affascinanti e dalle idee geniali come quella del Nobel per la fisica la fa andare avanti, sempre più forte delle sue convinzioni. È iniziato, non voglio dire quasi per scherzo, però sicuramente non pensavamo che potesse diventare effettivamente quello che è oggi, quantomeno non con questi tempi. L'Italia e buona parte del mondo non sembrano ancora pronti a fare il grande passo. E Rubbia, sollevato dall'incarico nel 2005, è costretto a spostarsi in Spagna. Il faro di una nuova prospettiva da sviluppare improvvisamente si spegne. Abbiamo avuto parecchi di sviluppi estremamente avanzati nel solare negli anni 80 e poi si è fermato tutto. Sono partiti qualche americano che poi non è riuscito ad andare in fondo e per 20 anni non era successo niente. E pensare che il primissimo brevetto per gli specchi solari risale al 1860 ed è opera di un italiano. Ma Rubbia non demorde. L'energia solare, secondo le sue stime, rappresenta concretamente il futuro. La pensa così anche Federica, che entusiasta del progetto, segue Rubbia e le sue idee anche quando questi lascia l'Enea per portare i suoi studi in Spagna. Per cui siamo entrati in contatto fin da subito, perché il trasferimento tecnologico avveniva, è vero, attraverso l'Enea, di cui lui a quel punto non era più presidente, però sostanzialmente avveniva sempre attraverso la sua figura, perché era lui che ci guidava nelle grandi scelte. I want the sun to shine on me. I want the truth to set me free. La passione per la natura, a contatto della quale è cresciuta, unita alla ferma volontà di prendersi carico della tradizione imprenditoriale di famiglia, non può che sfociare in una nuova, esaltante scommessa. Grazie alla visione illuminante del maestro Rubbia, Federica non vuole più produrre soltanto alta tecnologia, ma alta tecnologia al servizio dell'ambiente. Le competenze e il know-how a livello aziendale non mancano di certo, ma adesso c'è quel tassello in più per spiccare il volo: le conoscenze e la guida del maestro. E per cui quando nel 2007 abbiamo deciso di fondare poi un'azienda che facesse poi il prodotto, il tubo ricevitore, è venuto abbastanza naturale che fossi io a seguirla. Scelte coraggiose che una giovane imprenditrice sa di dover fare prima o poi nella sua carriera. Certo, non deve essere facile trovarsi faccia a faccia con un vero e proprio monumento nazionale come il professore. La prima volta che l'ho incontrato però personalmente è stato dopo la creazione di Archimede, per cui vorrei dire i primi mesi del 2008 a Roma, ad una cena a cui siamo andati solo io e mio padre, in un ristorantino delizioso vicino al Pantheon. Diluviava e sia io che, devo dire, mio padre eravamo molto molto emozionati, ce l'avevamo preparati benissimo per quella serata e anche molto tesi, e invece fu subito lui a metterci a nostro agio e iniziamo a parlare chiaramente del sole termodinamico, ma in generale di quali erano i nostri progetti, la nostra visione del futuro, e nacque subito una bella sintonia che è quella che tuttora ci accompagna, che caratterizza il nostro rapporto. Grazie all'unione di scienza e imprenditoria illuminata, il sogno di avere energia in abbondanza, a basso costo e soprattutto sostenibile a livello ambientale sembra davvero avverarsi, ed è un sogno tutto italiano. Dunque, professor Rubbia è stato il padre della tecnologia del solare termodinamico a Salifusi e per cui è il padre del tubo ricevitore che Archimede produce. Il cosiddetto tubo ricevitore è un tassello fondamentale nel funzionamento di una centrale solare termodinamica. È Federica a spiegarci i meccanismi che ne regolano l'utilizzo. Come funziona il solare termodinamico? Nelle centrali abbiamo degli specchi a forma parabolica che non fanno altro che catturare i raggi del sole e concentrarli in un punto, detto il fuoco della parabola, dove vengono posizionate una linea di tubi cavi in cui scorre un fluido. Questi tubi hanno la caratteristica di catturare il calore prodotto dal sole e di trasformarlo in energia termica, scaldando il fluido che li attraversa. Questo fluido lungo la linea di tubi sale a una temperatura che è la temperatura di esercizio delle nostre centrali, 550 gradi centigradi, e alla fine delle linee incontra acqua in uno scambiatore, producendo una grande quantità di vapore che va ad azionare turbine elettriche. I tubi ricevitori si appropriano del calore prodotto dai raggi solari e lo trasformano in energia termica, scaldando il fluido che si trova all'interno dei tubi stessi e che è costituito da una miscela di sali fusi, principalmente nitrati di sodio e di potassio. Ed è proprio qui, in questa combinazione di elementi chimici piuttosto comuni, che sta una delle innovazioni principali della tecnologia prodotta da Angela Antoni e ispirata dagli studi di Rubbia. Non rimane che metterli alla prova. E abbiamo iniziato a lavorare per la commessa dell'Enel per la produzione di tubi ricevitori per la centrale di Priolo a Siracusa, con uno stabilimento sperimentale, quasi artigianale vorrei dire, per cui con macchine che avevamo creato noi un pochino all'occorrenza. E poi mentre realizzavamo questa fornitura siamo resi conto che il mercato era grande, che le capacità c'erano, il know-how c'era, che per cui potevamo spingerci oltre. La nuova centrale di Priolo, in provincia di Siracusa, altro non è che un vecchio impianto Enel ristrutturato e inaugurato nel luglio 2010 per far posto all'energia che deriva dal sole. Una fonte pressoché inesauribile nella calda e assolata Sicilia. A Priolo, nel 2010, si ripete il miracolo compiutosi in quegli stessi luoghi 2223 anni prima. La forza dei raggi solari contribuisce a cambiare il corso della storia. Se nel 212 avanti Cristo il merito era di Archimede, nel 2010 è tutto merito della mente di Carlo Rubbia, unita alla forza imprenditoriale della famiglia Angela Antoni. È sempre importante e piacevole vedere il nostro paese, vedere delle persone intelligenti, preparate, capaci, che portano avanti un progetto con uno spirito di dedizione e di coraggio che sono veramente esemplari. Good day sunshine, good need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. Destini incrociati. Destini incrociati ha appena assistito all'inaugurazione della centrale solare termodinamica a concentrazione di Priolo, in provincia di Siracusa, realizzata con una tecnologia ideata e fortemente voluta dal premio Nobel Carlo Rubbia e costruita grazie alla sapienza tecnica dell'Angelantoni Industrie. Un traguardo importante sotto diversi punti di vista, un esempio virtuoso di sfruttamento delle risorse naturali. Bisogna dire che il risultato del progetto è che fondamentalmente, come ho detto ieri, l'Italia ha cominciato a lavorare sul solare, non per caso, perché l'Italia o Sole Mio non è soltanto una canzonetta, è anche una profonda realtà. Il sole ce l'abbiamo in Italia, ce l'abbiamo in Spagna, ce l'abbiamo in Africa e non c'è in altri paesi, non c'è in Germania, non c'è negli Scandinavi. E quindi una grande fortuna quella che noi abbiamo di vivere in un paese come il nostro. Basta vedere oggi la bellezza di questo sole. L'esperimento pilota di Priolo prevede la produzione di 5 megawatt di energia che soddisfino il fabbisogno di 4.000 nuclei familiari. Detto così, può non sembrare un granché, ma l'effetto cambia decisamente se la si mette in termini di risparmio. 2.100 tonnellate di petrolio in meno all'anno ed emissioni di anidride carbonica ridotte per circa 3.250 tonnellate. Numeri che potevano uscire solo dalla mente di un genio. Beh, il mio contributo è stato quello di, in un certo senso, di iniziare a definire i passi iniziali di questo programma, ad esempio i brevetti chiave di questi programmi sono brevetti che hanno anche il mio nome. Il contributo filosofico del professor Carlo Rubbia, vero e proprio faro per quel che riguarda le scelte in materia di energia solare, è la pietra angolare del progetto Archimede. Ma la parte pratica e strettamente industriale della questione non è meno importante, come lui stesso a raccontarci. E quindi in questo senso vorrei dire è stato un contributo di pensiero, ma è un contributo di pensiero che poi diventa posti di lavoro. Questo è un bellissimo esempio di come la scienza può diventare, può fomentare, può creare, può accendere, può sviluppare degli interessi che poi diventano interessi economici, interessi industriali. È un bellissimo trasporto tra la scienza e l'industria. Il successo dell'esperimento di Priolo porta a una certezza. Lavorando su quella stessa strada si possono fare grandi, grandissime cose. E da lì l'idea di realizzare un grande stabilimento che potesse per cui far fronte al mercato che consideravamo ci sarebbe stato, per cui di grandi commesse, di grandi player internazionali, che è poi lo stabilimento che abbiamo inaugurato ieri a Massa Martana. Carlo Rubbia non può che esserne entusiasta. Oggi abbiamo un grosso impegno industriale di Angelantoni e compagnia, essenzialmente perché 10 anni fa avevamo iniziato a sognare su queste cose che erano dei sogni questa volta, e abbiamo cercato di utilizzare anche non solo l'aspetto conoscitivo, ma anche l'effetto del potere d'acquisto di queste cose, creando questi che sono i brevetti che oggi Angelantoni sviluppa, che noi abbiamo regalato, essendo un ente pubblico, al sistema Italia, che è quello di costruire questi specchi che raccolgono una quantità straordinaria di luce in condizioni estremamente favorevoli e che sono un vincitore nato di questo processo. Yeah. 14 settembre 2011. A Massa Martana, paese d'origine di Federica e dell'intera famiglia Angelantoni, viene inaugurato il nuovissimo stabilimento di Archimede Solar Energy, azienda che si occupa in esclusiva mondiale della produzione dei tubi che sostanziano il funzionamento delle centrali solari termodinamiche a concentrazione. Tutto questo non sarebbe stato possibile se non fosse stato per Carlo Rubbia, che come da copione non manca l'appuntamento più importante, almeno dal punto di vista simbolico. Il 22 gennaio del 2010 c'è stata la posa della prima pietra dello stabilimento di Massa Martana, appunto di Archimede, ed è stato proprio il professor Rubbia anche lì accompagnarci in questa avventura, a sostenerci e a posare fisicamente la prima pietra. È stato molto emozionante. Mi ricordo che fu un evento aperto a tutta la, come partecipazione a tutta la cittadinanza di Massa Martana, e ci fu tantissima partecipazione, perché effettivamente erano tutti molto emozionati di vedere girare in un piccolo paesino dell'Umbria un premio Nobel e un personaggio così importante. Federica Angelantoni è fiera ed entusiasta dell'inizio di questa nuova avventura personale, aziendale e soprattutto italiana. L'Italia è ricca di fonti naturali, è ricca di vento, è ricca di sole, e vengono sfruttate troppo poco, e fa rabbia vedere altri paesi che sono molto più carenti da questo punto di vista di risorse, diciamo, naturali, che si adoperano però per sfruttarla in maniera diversa. Un esempio su tutti è la Germania, che ha in termini di fotovoltaico installato dei numeri che sono 100 volte superiori a quelli italiani, pur non avendo la risorsa principale, che è il sole, a disposizione come certo può avere l'Italia. Per cui è importante il sistema di incentivazione, perché questo è uno degli elementi trainanti. È importante che i governi credano in queste iniziative, che sostengano gli imprenditori nel creare e fortificare tecnologie utili per poterle consolidare, esportare poi nel mondo tecnologie italiane che rendono, secondo me, anche che possono essere un vanto per la nazione stessa. Scienza e tecnica imprenditoriale, sostanza e forma, idee ed applicazioni si fondono in un unicum virtuoso. E sicuramente bisogna sposare le due cose: da una parte salvaguardia dell'ambiente e dall'altra anche sostenibilità economica, per cui sostenibilità economica e ambientale effettivamente. E quando riesci a trovare la chiave giusta, penso che la soddisfazione sia grande per un imprenditore, perché sai di poter portare un contributo alla tua azienda, ai dipendenti, alla tua famiglia, ai tuoi dipendenti, ma anche alle persone, al tuo ambiente, alla tua regione, al mondo, perché no? Dopotutto, il professor Rubbia, citando Einstein, l'aveva detto: la teoria e le sue applicazioni sono ugualmente fondamentali, perché concorrono a migliorare la vita e il futuro di tutti. I frutti del labbro, come dico, sono la ricerca applicata, sono le applicazioni della ricerca. L'albero però è l'idea inizialmente inutile, folle, non utilizzabile, che poi diventa la chiave di volta per il futuro dell'umanità. In my hands, they cry.